America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Myrtle Beach, South Carolina, Mario Platero. There's no better way to celebrate Dr. King than to do something on behalf of others. Cominciamo in realtà da un evento a Washington. Barack Obama che celebra Martin Luther King. Ieri è stato il Martin Luther King Day, un giorno, ha detto il presidente, in cui occorre cercare di fare qualcosa per servire gli altri. Sono 3 anni, dice il presidente, che lui ha deciso di dedicare questa giornata a una sorta di volontariato. Ieri nel dibattito presidenziale qui a Myrtle Beach si è parlato di Martin Luther King. Per primo ne ha parlato Rick Santorum con una provocazione che ha fatto a Mitt Romney. Do you believe that felons who have served their time, gone through probation and parole, exhausted their entire sentence, should they be given the right to have a vote? This is Martin Luther King Day. This is a huge deal in the African American community. Ecco, in realtà Santorum ha preparato un trappolone a Mitt Romney, perché è partito dall'idea che durante il Martin Luther King Day si debba affrontare una tematica come quella del voto di coloro che hanno scontato la loro pena in carcere e che dovrebbero avere il diritto di voto, e dunque ha chiesto a Romney se fosse favorevole o contrario. Romney è come se fosse stato preso un po' in contropiede da questa domanda di Santorum, ha cercato di divagare, Santorum ha cercato di inchiodarlo, e poi alla fine, quando ha detto no, secondo me non bisognerebbe dare il voto ai criminali, sono stati dei criminali, non dovrebbero più avere il diritto di voto, ebbene Santorum a quel punto lo ha attaccato di nuovo, ricordando che in Massachusetts in realtà la posizione dello Stato dove lui era governatore è una posizione molto più libera e consente il voto ai carcerati. Ecco, Mitt Romney ieri sera è stato sotto un attacco piuttosto duro da parte di Gingrich, che ha fatto una performance, devo dire, straordinaria. Gingrich ha giocato in casa letteralmente, si vedeva, era a suo agio, lui è della Georgia, uno stato qui confinante, vicino, e dunque insomma c'è stata un'atmosfera molto favorevole a Gingrich, che in questo momento è secondo a circa 7-8 punti percentuali rispetto a Mitt Romney. Infine Ron Paul invece non ha giocato in casa, sembrava essere nella curva opposta a quella in cui lui si troverebbe più a suo agio, e soprattutto quando ha parlato degli sforzi militari americani, quando ha parlato dell'uccisione di Osama Bin Laden, e quando ha cercato di rivendicare diritti un po' per tutti, anche per il Pakistan, anche per i talebani, è stato fischiato dal pubblico. Subito dopo il dibattito sono stato alla Spin Room. La Spin Room è questa stanza dove i candidati arrivano e parlano con noi della stampa. Vi faccio sentire questa rapida sequenza, intanto partendo con Gingrich. We're the most electable candidate in this race. We've proven it in our races in the past. We've been able to run as a conservative in tough districts and in tough states and been able to win. Governor Romney ran as a liberal. E poi Santorum. This is a marathon, not a sprint. Infine una piccola chiacchierata di nuovo con Santorum, in cui si parla di varie cose. Gli chiedo se l'Europa è socialista ed ecco cosa dice. We refer to it as European socialism, not the strict definition of socialism, but more of a heavy state control of things. Yes, I mean that's the case. They have very high rates of taxation and you know, not the economic freedom that we have in this country, and that's a fundamental difference between the countries and between the countries and the United States. Con me Paolo Valentino. Paolo era con me ieri sera a questo dibattito repubblicano. Paolo è l'inviato del Corriere della Sera. Partiamo da questa dichiarazione di Santorum, secondo cui l'Europa in effetti è socialista. C'è un'immagine un po' eccessiva, secondo te, in America dell'Europa, o è un cavallo di battaglia che stanno cavalcando contro Obama? Ma un po' tutte e due le cose. Non c'è dubbio che è un cavallo che stanno cavalcando contro il presidente Obama, accusato appunto di volere un'eccessiva ingerenza del governo nell'economia, che è esattamente l'opposto del credo repubblicano e soprattutto del credo del Tea Party, cui tutti un po' lisciano il pelo in questa fase per assicurarsene il consenso. Però non c'è dubbio che esista una visione un po' distorta dell'Europa negli Stati Uniti, nel senso che soprattutto la classe politica accredita e buona parte dell'opinione pubblica recepisce questa verità, questa leggenda, che appunto l'Europa sia una terra in mano a governi socialisti che non fanno altro che appaltarsi interi settori dell'economia, restringendo il campo di libertà di scelta delle persone. Ecco, hai parlato dei Tea Parties, c'è stato ieri pomeriggio un convegno dei Tea Parties, una giornata in fondo dedicata ai Tea Parties. Sono un po' in crisi, sono un po' alla ricerca dell'identità, sono stati picchiati duramente in congresso qualche tempo fa, quando lo stesso Partito Repubblicano li ha isolati, quando si è trattato di passare la legge sui tagli in busta paga. Ecco, come li hai visti ieri, sempre qui a Myrtle Beach? Io credo che quello dei Tea Party sia il grande dramma che si sta consumando in questa primaria repubblicana nel South Carolina. I Tea Party chiaramente vivono questa fase di grande lacerazione interna perché non sono riusciti a unificarsi dietro a un candidato e rischiano di veder vanificato tutto il loro potenziale, la loro capacità di influenza. Ricordiamo che i Tea Party hanno di fatto nel 2010 preso in ostaggio il Partito Repubblicano, condizionandolo le scelte e imponendo e portando al successo dei candidati alternativi a quelli ufficiali del Partito Repubblicano. Quest'anno, quando in realtà non si tratta di appoggiare molti candidati, ma si tratta di unirsi di fronte dietro a un candidato, i Tea Party confermano che cosa? Confermano il problema di ogni movimento di base quando deve misurarsi con il pragmatismo della politica e non può e non sa rinunciare alla propria purezza ideologica. Ed è questo il dramma che vivono i Tea Party. Sono divisi tra Santorum e Gingrich, non riescono a mettersi d'accordo. Devo dire anche un'altra considerazione, che non è solo il fatto che non ci sia un candidato capace di metterli insieme. Pesa anche il fatto che nell'ultimo anno i Tea Party non hanno avuto l'onore della cronaca, perché l'onore della cronaca è stato quello di Occupy Wall Street, che è un movimento molto più in tema con lo spirito del tempo, della disuguaglianza e della crisi economica. Ecco, torniamo al dibattito di ieri sera. La mia impressione, Paolo, è che Gingrich abbia forse fatto meglio di tutti. Ho detto che ha giocato in casa. Romney l'ho visto un po' più in difficoltà. La domanda è questa: secondo te è possibile che da qui a sabato prossimo, quando ci saranno le primarie in questo stato, Gingrich riesca a recuperare quel distacco di 7-8 punti percentuali nei confronti di Romney e vincere il South Carolina? Sarebbe una svolta importante. Sarebbe una svolta drammatica e spettacolare. Io non credo sia possibile, credo che sia troppo tardi, nonostante il dibattito di questa sera abbia mostrato un guizzo, abbia mostrato una situazione dinamica, perché per la prima volta Romney non è riuscito a giocare come il candidato super partes, quello che è sopra le polemiche, perché è stato in mezzo alla polemica e di volta in volta è stato ingaggiato, è stato anche messo in difficoltà da tutti gli altri sfidanti. Io credo che sia troppo tardi, ripeto, dovrebbe succedere qualcosa di straordinario, vedremo il prossimo dibattito di giovedì sera a Charleston, però non credo che ci siano i giorni, ci sia tempo sufficiente per consentire a Gingrich di completare questa rimonta che pure è in atto. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, devo dire, questi candidati sperano. Ieri è stata la giornata della speranza con il Martin Luther King Day e dunque cerchiamo una canzone che possa in qualche modo rappresentare la giornata di ieri. John Baez, We Shall Overcome. Someday. Myrtle Bay, South Carolina è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.